Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte e tutti. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. La nostra idea è quella di dare un contributo, sia pur piccolo, alla costruzione di una società capace di futuro e di rispetto fra tutte le specie. È la puntata numero 741 e parleremo di tigri e di capre, di orsi trentini e di animali domestici. E citeremo anche un grande scrittore, impressionato da una visita a uno dei luoghi simbolo del nostro tempo, i mattatoi. La ricetta della settimana, come al solito, è affidata al tosco vegan chef Gabriele Palloni. La cura della colonna sonora è di Gianluca Masala. Tra i tanti effetti non collaterali del disastro ecologico in corso c'è la progressiva scomparsa di specie animali. Sappiamo che sta avvenendo a ritmi che non hanno precedenti, mettendo a repentaglio la biodiversità in vaste zone del pianeta. Fa perciò impressione, ma induce anche una certa malinconia, vedere che fa notizia il ritrovamento di un ciuffo di pelo di un felino. Accade in Indonesia, dove l'esame del DNA di un pelo ritrovato 5 anni fa sul filo di una recinzione farebbe pensare che la tigre di Giava, data per estinta, potrebbe invece essere ancora presente al mondo, sia pure con un numero limitatissimo di esemplari. Lo studio, con il risultato dell'esame del DNA, è stato pubblicato sulla rivista Oryx dall'Agenzia Nazionale per la Ricerca e l'Innovazione dell'Indonesia. Si tratterebbe di una scoperta piuttosto clamorosa, perché l'ultimo avvistamento documentato della tigre di Giava risale a quasi mezzo secolo fa, tanto che l'animale è entrato nella lista rossa degli animali estinti, stilata dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. La storia naturale ci informa che nel XVIII secolo la tigre di Giava era la dominatrice dell'isola dell'arcipelago indonesiano, ma il progressivo ampliamento degli insediamenti umani e la deforestazione hanno determinato una drastica riduzione degli esemplari in libertà, fino appunto alla supposta estinzione. Il ritrovamento del ciuffo di peli ora attribuito alla specie, anzi alla sottospecie, secondo le categorie tassonomiche, risale al 2019, quando un ambientalista residente a Giava avvistò un possibile esemplare di tigre vicino al villaggio di Cipendewi, nella parte occidentale dell'isola. I ricercatori accorsero subito sul posto e trovarono orme e segni di artigli effettivamente attribuibili a una tigre. Perlustrando la zona, recuperarono un ciuffo di peli su una recinzione che separa la strada del villaggio da una piantagione. Nel marzo del 2022 il reperto è stato portato nei laboratori dell'Istituto Indonesiano di Ricerche per provare a risalire all'identità dell'animale. Ebbene, l'analisi del DNA ha rivelato una somiglianza del 97% rispetto al DNA delle tigri dell'isola di Sumatra e una distanza genetica pari allo 0,3% rispetto a un esemplare di tigre di Giava risalente al 1930 e oggi conservato in un museo. Una vicinanza quindi strettissima. Da questa analisi, hanno scritto i ricercatori, concludiamo che il campione di pelo appartiene alla tigre di Giava e che rientra nello stesso gruppo dell'esemplare del museo raccolto nel 1930. Se la tigre di Giava sia effettivamente ancora presente allo stato selvatico, deve essere confermato, dicono ancora i ricercatori, con ulteriori studi genetici e sul campo. A questo punto c'è da cercare la tigre, insomma, e se fosse trovata sarebbe un piccolo raggio di luce nel buio pesto dell'estinzione di massa in corso. Per una tigre che forse vive ancora in una grande isola come Giava, ecco un gruppo di capre libere su un'altra isola, la minuscola Alicudi, in Sicilia, che il sindaco vorrebbe regalare ad allevatori esterni purché vengano a prendersele. Sì, perché per il sindaco di Lipari, il comune che comprende l'isola, questa sarebbe una soluzione morbida, leggera, preferibile a un'eventuale eradicazione cruenta degli animali, che sarebbero circa 600. Un'eradicazione che per il sindaco è sostanzialmente necessaria. Ad Alicudi, si fa notare, non vivono più di 100 persone e le capre starebbero danneggiando la vegetazione e anche i tipici muretti a secco. Quindi la soluzione sarebbe la più semplice: allontanare le capre. Si stima che ogni capra possa valere sul mercato circa 200 euro. Verrebbero regalate a gruppi di 50, con un potenziale ricavo, quindi per ogni allevatore, di 10.000 euro. Vedremo se si faranno davvero avanti questi allevatori, che dovrebbero comunque prelevare a proprie spese gli animali liberi sull'isola. È difficile pensare, a dire il vero, che il paesaggio locale, i muretti a secco, le campagne di un tempo sarebbero miracolosamente ripristinati. Ci vorrebbe semmai una presenza umana maggiore, un ripopolamento, ma nessuno al momento sembra credere a questa possibilità. Per cui via le capre, che vadano pure al macello. Le associazioni animaliste stanno però contestando l'idea del sindaco e AIDA, che è una rete di gruppi animalisti, in una nota annuncia battaglia. Questa è una follia, dice. Anziché provvedere a sterilizzare le capre e a chiederne il riconoscimento come animale autoctono da proteggere all'Unione Europea, il sindaco regala le capre agli allevatori e lo chiama pure provvedimento soft. Noi, prosegue la nota di AIDA, non possiamo accettare questo esodo di massa delle capre dall'isola, con il rischio che anche altre isole seguano questa folle decisione. Eradicare senza alcun motivo le capre dal loro territorio è a nostro avviso un reato di maltrattamento animale. E in questi giorni cercheremo di far cambiare idea al sindaco. Se non lo farà, siamo pronti a diffidarlo e poi, se sarà il caso, anche a denunciarlo. Insomma, l'isola delle capre vorrebbe diventare l'isola senza capre, affermando un'idea di autenticità e di integrità che somiglia ai tanti casi di invenzione delle tradizioni che abbiamo visto in passato in altri luoghi e contesti. Anziché immaginare forme di necessaria convivenza con la vita selvatica, si pretende di costruire a tavolino la propria identità, eliminando fisicamente i vicini di casa. Un anno fa, era il 5 aprile 2023, Andrea Papi, un giovane di 26 anni, perse la vita ucciso da un orso, incontrato nei boschi nei pressi di Caldes, in Val di Sole, in Trentino, durante una corsa. Una tragedia che ha esacerbato gli animi nella contesa politica attorno alla presenza degli orsi nel Trentino. L'uccisione di Andrea Papi, grazie agli esami del DNA, è stata addebitata a JJ4, un'orsa che probabilmente agì a protezione dei propri cuccioli, ma per la quale il presidente della provincia, Maurizio Fugatti, firmò un'ordinanza di soppressione, poi revocata dai tribunali amministrativi. JJ4 fu arrestata e quindi rinchiusa nella riserva carcere del Casteller, a Trento, dove tuttora in attesa del suo destino, fra la volontà di abbattimento, che non è mai venuta meno, e le ipotesi di trasferimento in un parco più adatto all'estero, caldeggiata dai gruppi animalisti. La ricorrenza della morte di Andrea Papi ha offerto l'opportunità per qualche riflessione sul caso. Carlo Papi, padre di Andrea, parlando con il quotidiano La Stampa, continua a chiedere giustizia per la morte di suo figlio, puntando il dito sugli amministratori locali. «Non c'è giorno, ha detto al quotidiano, che non vada in cimitero da Andrea. Così mi sembra di essergli più vicino. Mi pare di vederlo mentre mi dice: papà, sono solo andato a fare due passi in montagna, non a cercare l'orso. Dammi giustizia». Andrea, continua Carlo Papi, è stato abbandonato dalle istituzioni che avrebbero dovuto proteggerlo. Ci è stato tolto per leggerezza, incoscienza e irresponsabilità. Se avessero agito, se avessero vietato l'accesso a quelle zone, Andrea sarebbe ancora qui. Questa tragedia si doveva, non si poteva evitare. Qualcuno ora deve metterci la faccia. Siamo fiduciosi nella magistratura. Vengano individuati i responsabili e processati. Pesano per la famiglia Papi tanti insulti ad Andrea comparsi sui social media, luogo dove purtroppo il cinismo, la violenza e il fanatismo sono di casa. È una via crucis, davvero, dice ancora Carlo Papi, in cui mio figlio è vittima e martire. È stato offeso e calunniato da tanti incoscienti e codardi dietro una scrivania e un telefono. Ma Andrea cosa aveva fatto di male? Una corsa in montagna, la sua passione. La macchina del fango, che si era attivata subito dopo la tragedia, non si è ancora fermata. Le querele da parte nostra sono state doverose. Anche ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, ha ricordato la morte di Andrea Papi. A un anno di distanza dal tragico incidente, ha scritto ENPA in una nota, in Trentino non è cambiato proprio nulla. Non si sono visti i cassonetti anti-orso, non si ha notizia delle campagne di sensibilizzazione e informazione per residenti e turisti, non c'è traccia dello stop ai foraggiamenti degli animali selvatici, né tantomeno sono state prese misure per delimitare e chiudere al pubblico le zone frequentate dagli orsi, soprattutto delle madri con i loro cuccioli. La morte di Andrea dunque sembra non avere insegnato niente. La colpa è stata attribuita a JJ4 e al suo essere considerata un animale problematico. Scaricando su di lei tutte le responsabilità, si è scelto di non agire con le necessarie forme di prevenzione, evidentemente carenti. L'unico provvedimento che è stato preso in questo anno dalla provincia di Trento è una legge che autorizza l'uccisione di 8 orsi all'anno. Una norma che si muove in una logica repressiva e declamatoria. Si annunciano condanne a morte, ma non si agisce nella prevenzione, giocando le proprie carte sul terreno della comunicazione, ma sarebbe meglio dire della propaganda, con i fucili che sostituiscono le attività che sarebbero necessarie per tutelare davvero la sicurezza delle persone umane. Uno scenario davvero cupo e preoccupante. In linea però, tocca constatare, con il corso principale degli eventi. Viviamo una stagione di guerre, di violenze, di autoritarismi. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. C'è il rischio che la novità introdotta dall'Università Bicocca di Milano venga bollata come la riprova che oggi si preferisce avere animali domestici che figli. È una retorica fasulla che vorrebbe contrapporre gli uni agli altri e che tante volte abbiamo ascoltato. Fatto sta che da pochi giorni per chi lavora negli uffici di quella università milanese c'è la possibilità di portare con sé il proprio cane o il proprio gatto. È una facoltà prevista da un apposito regolamento di Ateneo. Professori, ricercatori e personale tecnico, amministrativo e bibliotecario possono portare sul luogo di lavoro il proprio animale di affezione. Ci sono naturalmente dei requisiti, fra cui l'obbligo di dotare gli animali di un microchip identificativo, l'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, il libretto sanitario, la certificazione delle profilassi vaccinali e dei trattamenti antiparassitari e anche la sottoscrizione di una polizza assicurativa che preveda la copertura per eventuali danni causati a persone o cose dall'animale. In aggiunta è necessario che cani e gatti ammessi negli spazi universitari non abbiano problematiche come l'aggressività verso le persone o altri animali e i proprietari saranno tenuti a tenere con sé tutto il necessario per la cura igienico-sanitaria dei propri cani e gatti. Inoltre, l'accesso agli animali non sarà consentito in alcuni spazi elencati nel regolamento, come gli uffici che prevedono un contatto diretto e continuativo con il pubblico, le aule e i laboratori didattici, le aule studio, le sale conferenze e riunioni, la biblioteca e inoltre anche gli spazi mensa e le aree destinate al coffee break, oltre che nei luoghi dove vengono rese prestazioni sanitarie ambulatoriali. C'è anche un ulteriore limite. Serve l'autorizzazione all'accesso del proprio dirigente e nel caso di uffici condivisi a questa deve essere aggiunto il consenso formale degli altri occupanti della stanza. Insomma, c'è la libertà di portare i propri animali, ma c'è anche un percorso con molti ostacoli, superabili solo con una grande determinazione. È comunque un esperimento e merita perciò di essere seguito. E poi non è detto che tutti i cani, e specialmente tutti i gatti, vogliono davvero seguire il proprio compagno umano al lavoro. Registriamo come interessante novità la scelta dell'Università Bicocca, ma per il momento c'è da essere scettici sul fatto che venga realmente applicata. Seguiremo il caso. Gabriele Palloni, chef amico della non violenza e dell'antispecismo, anche questa settimana ci regala una ricetta che prende ispirazione da una delle notizie della puntata. Ricordiamo che Gabriele è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito Newton Compton. Sentiamo che cosa ci propone. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Alla tigre di Giava dedichiamo la ricetta di oggi, uno street food indonesiano molto originale nella sua semplicità. La cosa più difficile è pronunciare il suo nome. Perkedel Jagung, frittelle di mais. Le dosi per 4 persone sono 250 g di mais cotto, 100 g di farina tipo 0, 20 g di farina di ceci, un cipollotto, uno spicchio di aglio, sale e pepe e olio per friggere. Stemperate la farina di ceci in 40 g di acqua e lasciate riposare per 15 minuti. Nel frattempo, con un frullatore di immersione, tritate l'aglio, il cipollotto e 150 g del mais fino ad ottenere una crema densa. Versate il tutto in una bowl, unite la pastella di ceci e il rimanente mais e condite mescolando con sale e pepe. Impastate tutto con la farina fino a quando sarà ben incorporata. Con l'aiuto di un cucchiaio friggete l'impasto in immersione in olio ben caldo. Dovrete ottenere delle frittelle abbastanza grandi e piatte. Quando saranno ben dorate, scolatele e fatele asciugare su carta per frittura. Servitele calde accompagnando con salsa piccante. Chiudiamo con una breve lettura estratta dall'ultimo numero di Liberazioni, la rivista di critica antispecista giunta al numero 56. In apertura del fascicolo è pubblicato un breve estratto da un libro importante, La lingua salvata, edito in Italia da Adelphi, uno dei volumi della grande, bellissima autobiografia di Elias Canetti, il grande scrittore di lingua tedesca. Nato in Bulgaria nel 1905 e morto in Svizzera nel 1994, premio Nobel per la letteratura nel 1981. È un breve resoconto della visita a un mattatoio, uno di quei luoghi che tanto poco conosciamo, perché occultati alla vista e alla conoscenza, salvo le immagini rubate in anni recenti dalle investigazioni coperte di attivisti animalisti. Dovremmo sempre considerare che i mattatoi, lungi dall'essere una presenza marginale nella nostra società, ne sono invece uno degli assi portanti, vista la quantità di animali che vi vengono eliminati, l'enorme mole di denaro legata al ciclo dell'allevamento di animali e del consumo di carne, e anche vista la centralità ideologica della sottomissione animale nella nostra società. Sentiamo dunque Elias Canetti. Prima di portarci al mattatoio, come era nei suoi programmi, volle prepararci a quella visita. Affrontò prima l'argomento nel corso di parecchie lezioni, spiegandoci e rispiegandoci che gli animali non dovevano più soffrire. I tempi erano cambiati e non si agiva più come una volta. Ora si faceva in modo che le bestie andassero incontro a una morte rapida e indolore. Arrivò al punto di usare in proposito il termine umano. Io avevo di lui una tale stima e gli ero così affezionato che accettai anche questi preparativi un po' troppo circospetti per la visita al mattatoio, senza concepire nei suoi riguardi la minima avversione. Sentivo che voleva abituarci a qualcosa di inevitabile. Pensavo tuttavia con grande angoscia al giorno della visita, che si faceva sempre più prossimo. Quando venne il momento e attraversammo il mattatoio, mi tenne accanto a sé. Illustrò tutte le attrezzature come se fossero state appositamente studiate per compiacere gli animali. Ripensandovi oggi, ho l'impressione che si comportasse come un prete che si sforza di distogliere qualcuno dal pensiero della morte. A un certo punto fu travolto dal suo amore per la scienza e ci mostrò qualcosa che distrusse tutto. Passammo accanto a una pecora appena macellata, che giaceva squarciata davanti a noi. Nella placenta nuotava un minuscolo agnellino. Poteva essere lungo mezzo pollice. Nemmeno testa e zampe erano chiaramente riconoscibili, ma tutto pareva ancora trasparente. Noi gli stavamo tutti attorno e lui mi aveva perso di vista, ma in quel momento fu io che levai lo sguardo su di lui e dissi piano: assassinio. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.